Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Siamo riusciti a prendere degli stronzi. Dove sei? Da tutti gli specialisti. Il nostro capo che ci insegna. C'era l'orchestra, c'era la simpatia, un po' del buccio del culo, i soldi, lì hanno preso una nana del merda che non parla. Perché questo paese non ti consente la leggerezza, non te la perdona, non ti perdona il talento, il merito e la leggerezza. Allora dici, apri i pacchi, apri le scatole, non ce le rompe. Vieni qua a dirci che dobbiamo accogliere i migranti, i disoccupati, gli oppressi, e chi non ha l'insegnante di sostegno. Questo è un paese che se c'hai un figlio con un problema, la classe magari dice no, rimaniamo indietro col programma. E allora io ho parlato di queste cose, dice apri i pacchi. Infatti quando è successo questa violenza, perché è violenza, questa è una roba violentissima che mi sta succedendo. E adesso la facciamo vedere. No, ma l'assalto. Io ho detto delle cose sbagliate, o meglio, ho detto in modo sbagliato delle cose giuste. Certo che queste ultime parole di Flavio Insinna, che non so perché continua a chiamare Fabio, ma ci sarà un problema che probabilmente è alla radice della mia percezione del personaggio televisivo, potrebbero essere sottoscritte. Il mondo non ama la leggerezza, il mondo non perdona la leggerezza, il mondo è indifferente di fronte ai problemi che uno può avere con un figlio che ha un comportamento diverso dagli altri quando va a scuola. Vero, sacrosanto, indubitabile, chi parla poi lo sente anche nella propria esperienza quotidiana. Sta di fatto che quando ci si espone comunque in un ruolo pubblico, e soprattutto in un ruolo pubblico che in realtà dà quello che è il compenso più ghiotto per l'umanità oggi, la visibilità, il successo, l'essere celebri, l'essere famosi, senza nessun tipo di impegno, senza nessun corrispettivo, se non quello di fare ascolto, se non quello di fare programmi di successo. Beh, ci si sente improvvisamente come attraversati da una sorta di grazia immeritata, ma che ti mostra agli occhi degli altri di essere qualcosa che è al di sopra dell'umanità media. Il conduttore televisivo celebre, il celebre personaggio televisivo, la persona attraversata comunque da una visibilità ripetuta e reiterata attraverso un canale televisivo, è una persona che eccelle sugli altri. Perché? Ma eccelle perché? Perché la televisione stessa gli dà questa sorta di grazia per essere considerato qualcosa di diverso, qualcosa di superiore. Insinna aveva tutte queste possibilità perché era un personaggio, faceva un programma in prima serata su Rai 1, la rete ammiraglia del servizio pubblico. Quindi Insinna probabilmente quando va per strada la gente lo ferma: Insinna, oh, fammi l'autografo, e tutti diranno ho visto Insinna. Insinna non può avere una sua vita privata perché Insinna è un personaggio pubblico. Insinna a un certo punto ha messo il piede su una buccia di banana. Ha avuto, ma questo accade perché? Perché oggi c'è la rete, ci sono gli smartphone con le telecamere. Non sarebbe mai accaduto a Mike Buongiorno, non sarebbe mai accaduto ai vecchi pilastri immarcescibili della televisione classica. Perché? Perché nessuno sa cosa sono al di là di quella che è la loro immagine pubblica, della aureola che gli dà, che dà loro la televisione. Insinna, ahimè, gli è capitato di fare questo bel mestiere nel momento probabilmente in cui bisogna stare ancora più attenti, bisogna essere come dei monaci che santificano e sacrificano tutta la loro vita privata a quell'immagine pubblica, che non è importante che poi corrisponda al loro essere vero, ma però quella deve essere, quella devono mantenere, quindi non dovrebbe permettersi nulla che metta semplicemente in dubbio, offuschi l'immagine santificata della televisione. Invece ha messo la coda al diavolo, ha fatto sì che per una serie di dinamiche che sono sempre esistite da quando esiste il mondo, qualcuno rosicando o per motivi strumentali o semplicemente per il gusto di dar fastidio a qualcuno che si invidia, ha ripreso con uno smartphone quello che è il suo aspetto umano, che è un aspetto che non è particolarmente degno di frustate nella pubblica piazza, di impeciamento e copertura di piume, è semplicemente una persona che sbrocca, una persona che se la prende con i suoi collaboratori, che tratta i suoi collaboratori delle volte anche con un tono eccessivo. Ma guardate che la maggior parte dei conduttori di successo lo fanno. Perché? Perché hanno una mania di perfezionismo per mantenere viva la loro immagine, quindi qualcosa non va, se la prendono con gli altri. nell'area riservata del retropalco del suo studio, se l'è presa Insinna con i suoi collaboratori. Perché? Perché avevano sbagliato, oggettivamente avevano sbagliato, e hanno dato un personaggio sbagliato. Vuol dire che è disumano? No, un personaggio in un programma televisivo di prima serata in cui è tutto calibrato per fare il massimo gradimento con il minimo sforzo, era una persona sbagliata. La signora, ahimè, che è stata vittima di questo insulto vergognoso per chi l'ha pronunciato, non era il personaggio giusto, non andava bene, era sbagliata a tanti punti di vista. Sì, non era adatta per essere inquadrata, sì, ma perché questo è la televisione? Non pensate la televisione sia qualcosa di diverso da un teatro, non pensate la televisione sia qualcosa di buono che prende le povere persone per strage. Tu, signora sarda, siccome sei indigente ti porterò ai pacchi come la piccola fiammiferaia, per il pacco sarai felice. No, viene scelta da un casting molto rigoroso e probabilmente era troppo bassa per essere messa in televisione. Insinna questo l'ha fatto notare, non andava bene. In più parlava con le mani davanti alla bocca, qualcosa di terribile. Una persona in televisione vuole vedere il personaggio che parla, vedere gli denti, la lingua, l'epiglottide. Questa signora parlava con le mani davanti alla bocca, non era un personaggio adatto per fare quel ruolo televisivo, non era la comparsa adatta per la sceneggiata televisiva che è il gioco dei pacchi. E Insinna tecnicamente questo diceva con toni assolutamente vessatori e anche denigratori nei confronti della concorrente. Questo è diventato pubblico e Insinna, come Dio appunto, è caduto e adesso è una sorta di profugo che giace e vaga errabondo per le lande della televisione cercando di riscattare quel regno dei cieli che a lui è stato negato. 800240024, chi troppo in alto va cade sovente, precipitevolissimevolmente. A tra poco. Melog, cronache meridiane. È diverso se ci insultiamo qua o se io, parlando come un allenatore negli spogliatoi, dico malissimo e sottolineo malissimo, lo dico lì che è acceso il rosso, dico malissimo, la pietra preziosa di affari tuoi è chi gioca. Si potrebbe giocare con un citofono senza il conduttore, ma ci deve essere una pietra preziosa. Sbaglio come lo dico? Certo, mi scuso, ma la violenza a me è stata fatta passando su una persona, facendogli sentire un audio che non avrebbe mai sentito. 800240024, sacrosanto quello che dice Insinna, però detto questo la sua difesa è stata pessima, perché Insinna, ahimè, mostrandosi con il saio del penitente, togliendo la veste regale del conduttore televisivo, c'aveva anche una bella barba mistica che voleva ancora più suggellare il fatto che lui è in questa fase di recupero della sua condizione elevata, in realtà ha fatto un disastro ancora più grosso. Perché? Perché Insinna ha rivelato in un set senza copione, senza schema, senza autori, senza concorrenti, senza la griglia potente che a lui dava appunto l'apparenza di realtà, ha rivelato il suo lato umano. E il mondo non perdona gli dèi di essere umani. Questo deve essere una circostanza chiara a tutti coloro che fanno televisione. Questo è il punto. Vi leggo un sms, fammi capire poi il senso. È una persona che si sente in questo momento in diritto di dire questo, ma come le tricotese erano quelle signore che andavano a fare la calzetta davanti alla ghigliottina per il gusto di vedere le teste ai nobili che cadevano. Dovevano cadere, era giusto vederli lì, se la facevano sotto, spaventati, pesti, le donne belle senza parrucca, senza cipria, quelle dame altezzose, vedere tagliargli la testa era una cosa fantastica. È fantastico mandare un sms su Insinna dicendo, insomma, a quello che si merita. Che si merita per cosa? Per aver dato della nana a una donna, una cosa terribile, ma ognuno di noi ogni volta nella vita avrà fatto un'infinità di cose del genere. Quante volte ho detto io donna nana tutta tana per ridere così, capito? Se l'avessi detto in un contesto di fuori onda rubato, oggi magari dovrei rendere conto a qualcuno di quello che ho detto. Insomma, a quello che si merita, prima di tutto perché è una palla di lardo ributtante. La palla è lardo ributtante, non mi sembra nemmeno con quello che gira qualcosa di particolarmente ributtante, ma non mi ha mai convinto. L'ombrosanamente è una carogna. È una carogna, questo signore ha già dato la sua sentenza. Un altro dice: che cazzo dice? Avete Cruciani e Parenzo e fa la morale agli altri. Avete, io non c'ho nessuno. Scusate, io ho a carico due figli al massimo. Cruciani e Parenzo fanno la loro trasmissione. Non faccio la morale a nessuno. Non faccio la morale a nessuno. Sto cercando di capire un meccanismo. Quella che stiamo assistendo, questa sorta di grande sceneggiata, l'insinneide di cui vediamo, deve essere una sorta di memento mori, una importante lezione. lezione per tutti coloro che pensano la visibilità dia il successo. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire questo, che sbloccare la visa capita a tutti, chi è che non ha il momento sul lavoro o da altre parti. Però andare a puntare un dito su una piaga non è che ha ferito solo la signora, ha ferito tutte le persone che probabilmente sono nello stato di lei. Vuol dire che probabilmente sei stato un capellino meno fortunato. Sì, però scusi, sì, Francesco. Però dire una frase a quella maniera, nana di merda, ho capito. Una persona che dice che sta dietro al sociale e dietro altre cose, mi sembra un po'. Però vede, scusi, no Francesco, io non è che voglio fare, in questa missione non voglio difendere Insinna, però voglio far riflettere le persone. Quella frase non l'ha detta a quella persona non ascoltava, quella frase l'ha detta in privato ai suoi collaboratori. Questo è un altro discorso, scusate, quello che noi diciamo in privato molte volte è detestabile. Francesco, ma lei non dice delle cose detestabili nel suo privato, con i suoi amici, con sua moglie, diciamo delle cose detestabili perché la dimensione del privato ha proprio questa funzione di poter dire anche cose detestabili. Noi rispondiamo di quello che diciamo pubblicamente, è chiaro, non doveva dirlo. Poi dice lei è una persona che si vantava di fare del bene. Sì, ha sbagliato. Ho detto, la difesa di Insinna è stata rovinosa. Uno non si vanta che regala la nave per gli immigrati, non si vanta che va nelle associazioni benefiche, non si vanta di dire lui sta alla parte debole degli oppressi, perché sembra veramente un prediscorso di uno che si vuole mettere in politica. Sono le banali autocelebrazioni che dice ogni persona vuole apparire buono. In questo momento Insinna si vuole recuperare apparendo quello che è il suo lato filantropico umano. Ancora peggio, ancora di più la gente gli farà rilevare quella frase infelicissima e brutta che ha detto, ma che assolutamente non è sufficiente a demolire comunque l'apparato di una persona. Doveva fare un'operazione, secondo me, mediaticamente molto più efficace. Andare a casa della signora e chiedere scusa personalmente alla signora, fare un vero auto da fè, una vera mortificazione, dire veramente fatto la più grossa cazzata della mia vita. Scusa, come uno chiede scusa a una persona quando la insulta in un momento di rabbia. Lo dice, poi comunque le conseguenze professionali saranno state anche le stesse. Alessandra, buongiorno. Ah, parla con me, buongiorno. Sì. Allora, io, a parte che sono contraria agli insulti ai portatori di handicap, ci ho lavorato per tanti anni. Ma questa signora, questa signora è leggermente un po' più bassa della media, adesso non esageriamo. Vabbè, è come uno dice brutto grassone a un signore corpulento, sì. O tu schifoso che c'hai gli occhiali quattro occhi. Ha fatto il banale insulto da ragazzaccio, ecco. Sì, vabbè, però sin da ragazzi ho sempre odiato quello che dice handicappato, cioè è una cosa che non sopporto, figuriamoci ragazzi. Ma sì, ma non l'ha detto quella signora. Lo so, vabbè, la nana pure quello mi ha fastidio anche il mio compagno. Quando dice quello è nano, ma non si dice comunque. Da certo, questo è logico. Secondo, comunque, a parte questo, troppo esagerato questo processo, troppo questa questione che è stato portato comunque alla conoscenza di tutti, perché sono cose che succedono, come dice giustamente lei, l'insulto così vaffanculo, eccetera, eccetera. Però dico di volgarità vere, se ne vedono tante in televisione, è molto più grave il dito medio di alcuni politici, non si può fare il nome. Fa l'indice e il medio, c'è differenza? No, il politico che ha fatto il dito pollice indice medio, scusi. No, prima decida quale dito, poi diciamo la funzione che ha ogni dito. Per il pollice che funziona. Il pollice fa l'autostop. Va bene, e fa pollice verso quando una persona non ti piace. Poi, tra l'altro ci conosciamo, sono la cantante lirica dell'edicola. Ah sì, è brava, è la mia vicina di casa, la incrocio ogni tanto. Allora adesso mi elenchi l'uso delle dita. Allora, cominciamo dal mignolo. Il mignolo serve con l'unghia lunga per pulirsi le orecchie e le persone schifose. Non mi riconosca nessuno dei miei amici, non mi massacrano oggi. Il pollice serve per fare l'autostop e per dire pollice verso, non mi piace questa persona. Anche ok si fa col pollice. Ho sbagliato perché i cantanti la mattina sono addormentati. Signora, risponda alle domande. L'indice serve per indicare, se non si chiamava indice. Il medio a che serve? Il medio, lo sa che non me lo ricordo. Allora ci pensi, rifletta, guardi. Media, virtus è stato in media, in mezzo. Il medio sta per essere collocato nella virtù. Ecco, detto questo, e stabilito il luogo in cui sta la virtù, cosa voleva dire? Voglio dire che è più volgare la Santanchè quando in diretta televisiva piazza un dito come per dire... Sì, ma la volgarità, scusi, ma chi è che può giudicare esiste una sorta di diritto di popolo di giudicare la volgarità. L'ha fatto volutamente la Santanchè, non mi sta per nulla simpatica, ma l'ha fatto volutamente, è un gesto provocatorio, era un gesto che doveva avere una sua forza. Lei se la ricorda, una persona che fa anche politica, quindi viene ricordata per la virulenza, per la forza e per la gagliardia di aver mostrato il dito medio, l'affronto peggiore. Poi fatto una donna non ha senso, ma ancora di più una donna dice: mi attribuisco anche la qualità virile di poter farti il dito e mostrarti che posso importi l'effrazione massima. C'è un discorso da fare. Insinna invece non ha fatto niente di glorioso e di eroico. Insinna è stato preso come uno che è stato preso mentre si infila le dita nel naso e continua a rinfacciargli quella stessa immagine per sempre. Questo è il problema di Insinna. Non è stato preso in un'azione gloriosa, trasgressiva ma gloriosa. Fosse stato preso, che ne so, con un amante, con due amanti, con tre amanti, non staremmo oggi a fargli questo tipo di processo. Mirella. Sì, pronto? Sì, l'ascolto. Allora io volevo soltanto dire che, non so, io questo signore non guardo mai Rai 1 tra le altre cose, però io ritengo, no, così proprio modestamente, che è una persona che ha avuto la fortuna e l'opportunità di poter avere una trasmissione in un momento di ascolto così elevato, perché insomma lui ha un orario, anche una fascia oraria su una rete prestigiosa. Abbiamo detto lui è come fosse stato seduto su un trono. Ha avuto tutte le fortune del mondo, come si può permettere con i soldi che prende di trattare così una persona piccola, cioè se lo fa mai io lo scuoio con le mie dita, voglio dire, perché poi pubblicamente è stata resa nota questa cosa, quindi questa povera signora immagino come si sente. Sì, Mirella, però scusi. È vergognoso, è una cosa da mandare la signora a buttare le chiavi. Sì, galera a buttare le chiavi, scusi. Sì, secondo me sì. Vabbè, mi rendo conto l'indignazione, però voglio specificarlo prima della pausa, così chiama. Insinna in quel momento non parlava della signora sarda, parlava di un fantoccio, parlava di una sagoma, parlava di un figurante. Voi smettete di pensare che in televisione esistano persone vere. In televisione sono tutti figuranti, anche il conduttore più umano. Io una vita ho parlato di televisione, ho scritto libri, poi adesso non ne parlo più, veniva considerato critico televisivo, e avevo detto la televisione non è altro che un produttore di ectoplasma in quanto è un medium. Tutto ciò che è televisione è teatro, è illusione. Nemmeno la Berlinguer è una signora così compassata, educata quando la vedete, ma giustamente è un essere umano, tornerà a casa, manderà a quel paese il marito, i figli e via dicendo, normalmente. Ma se uno mette un telefonino in quel momento e la filma, tutti a dire: ah, guardate come osa la Berlinguer a dire levati le scarpe quando entri a casa suo marito, lei che invece no, invece così abbiamo un aspetto privato, e in televisione chi va in televisione fa una grande recita, ma non per questo sia male, perché questo richiede la televisione. La televisione è come un teatro, un'evoluzione del teatro, dobbiamo recitare qualcosa, recitare anche il ruolo di brave persone, come faccio io ogni giorno qui che fingo di essere una brava persona. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Perché siamo tutti bravi a giudicare. Il mio telefono in questi giorni vale 1 miliardo, perché ci sono dentro un miliardo di messaggi di famosissimi e non, ma non c'è la parola solidarietà. C'è: se sentissero le mie prove mi impiccherebbero in piazza, se sentissero gli audio delle mie, tutto così. Il messaggio più prezioso è quello degli operai, e sottolineo, uso la parola operai, che hanno lavorato con me ad Affari Tuoi in questi anni. Partita questa ondata di violenza folle, gli operai di Affari Tuoi mi hanno scritto: non abbiamo mai lavorato con un onesto e appassionato come te. Allora, io continuo a scusarmi, le mie debolezze, ma ve lo posso dire io, ci sono delle mie intemperanze filmate sui set dei film per la strada, e qui arrivo alla cultura del lavoro. Ho sempre difeso quello che stavo facendo e stavamo facendo. Qui veramente siamo questo nello sbrocco totale, la chiamata in causa degli operai, la sua bontà, ma la sintesi migliore del caso Insinna, che non mi stancherò mai di ripeterlo, questa è la mia opinione, è un caso in cui chiaramente lui ha fortemente deluso, ma per una circostanza accidentale dovuta ai tempi moderni, perché esiste internet, esistono gli smartphone, esiste un programma concorrente con un concorrente che si chiama Ricci, che naturalmente se può ti azzanna la gola e non ti molla, d'altronde quello è il sistema, non si può pensare che poi uno ne esca indenne. E Insinna è andato tutto male, ha sbagliato tutto sin dall'inizio, ha sbagliato quando ha dato Staffelli a portargli il tapiro, che ha lanciato accuse contro Greggio che non poteva lanciare perché non aveva gli strumenti giuridici per poterlo affermare, ha messo in onda il fuori onda in internet dell'intervista che Staffelli ha mandato in onda, e anche per quello avrà dei problemi, l'acqua che lui pubblicizza ha tolto dalla messa in onda l'acqua per il suo fuori onda, insomma ormai è come uno tsunami, è come un'onda anomala che lo sta travolgendo. Leggo quello che dice l'ascoltatore, che è sacrosanto, il problema è che Insinna vendeva Insinna buono, puro e sensibile, quello è ciò che vendeva e su cui ha costruito il suo personaggio, in cui voleva far coincidere l'aspetto pubblico con quello privato, proprio quello che si è rivelato un prodotto sofisticato e scadente. Nessuno si sarebbe scandalizzato per uno Sgarbi o un Cruciani, ognuno vende il suo prodotto, professionalità, onestà, bravura o genio. Insinna ha puntato su un prodotto che non aveva, tutto qui, senza giudicare. Sì, è stato scoperto, in questo è stato bravo Ricci, è un vecchio situazionista, quindi sa dove buttare l'acido muriatico quando deve buttarlo, e la buttato nel posto giusto. Andrea Amato, buongiorno. Buongiorno. Allora, Andrea Amato l'ho fatto ascoltare per tutta la durata della prima puntata, volevo che si rendesse conto della reazione del pubblico. È direttore responsabile TV Zoom, che è un magazine online di spettacolo, ma il fatto che sia online non toglie che faccia opinione. Ogni mattina gli autori televisivi, i conduttori lo guardano trepidanti per capire qual è il giudizio che dà questo sito rispetto a programmi televisivi. Che opinione ti sei fatto te della difesa di Insinna dalla Berlinguer? Questa occasione che aveva, secondo me, ha sprecato in maniera terrificante. Beh, la difesa è maldestra come tutto quello che sta facendo da 10 giorni a questa parte. In quei casi lì, come hai detto tu, bisogna stare in silenzio, stare fermo, lasciarsi diventare, perché tanto siamo il popolo, ma soprattutto il pubblico italiano non ha memoria, quindi figuriamoci, dimentica tutto. Avrebbe dimenticato velocemente, e invece lui continua a peggiorare la sua situazione. Quella che sarà la sentenza definitiva mi sembra di averla sentita ampiamente dai tuoi ascoltatori, cioè non verrà perdonato per questo, che è un peccato assolutamente veniale. In ogni ufficio, in ogni redazione, in ogni luogo di lavoro succedono queste cose. Certo, quando poi succede a un personaggio pubblico che per tutta la carriera ha voluto passare come Padre Pio, ha parlato... Sì, lì è esagerato veramente. Cioè, ma non bastava quindi... che era un bravo distributore di pacchi, perché voleva essere anche una sorta di santo laico? Questo non l'ho capito io, ma chissà perché. Poi, se tu mi chiedi, quelli di Striscia sono stati, hanno fatto abbastanza un'infamata, la risposta è il loro mestiere, perché... ma è il loro mestiere però, scusa, Striscia questo fa... Sì, per l'amor di Dio, certo. Certo che è un'infamata, che discorso, ma loro, a questo punto fanno bene a insistere, che devono fare? loro devono cavalcare ovviamente il loro cavallo e sperare che mai nessuno riprenda le riunioni di redazioni... di Ricci, perché so benissimo che cosa succede lì dentro, ma come, ripeto, come tutti sì, però vedi, fatto da Ricci, nessuno si stupirebbe, se Ricci certo dicesse quel trippone di merda, ci starebbe, pazienza, l'ha detto Ricci, è quello che fa Striscia, non è che si vergogna di quello che è, e qui è l'aver spacciato una sorta di bonaccione con l'aurello dietro, che va a lavare i piedi ai poveri e che dà la sua barchetta agli africani, cioè tutto sì, questo, che va a sbatterlo in televisione, lo va a dire in televisione, debole, fallo e non lo dire, certo. La beneficenza, come sappiamo, però la beneficenza si fa ma non si racconta, ma assolutamente. Ci sono due cose che mi hanno abbastanza stupito di questa vicenda. Una è il quanto può appassionare questa vicenda agli italiani. Ieri Carta Bianca di Bianca Berlinguer, che su Re3 fa degli ascolti abbastanza ridicoli, cioè non supera i 500.000, 600.000 ascoltatori, ieri ha fatto 1.300.000, quindi ha più che duplicato, quindi, il suo valore di audience. Anche se è spompato, Insinna è ancora il Viagra della televisione della Berlinguer, questo lo dobbiamo dire. Incredibilmente sì. E l'altra cosa che mi ha stupito molto è stata la reazione a caldo, immediata, del direttore di Rai1, Andrea Fabiano, che poche ore dopo il servizio di Striscia ha twittato con un tweet di solidarietà verso Insinna. Vabbè, poverino Andrea Fabiano, è un ragazzo giovane, ancora non conosce certo, le malizie del mondo, che sì, ha fatto, non aveva nemmeno capito probabilmente cosa sarebbe accaduto dopo, forse conveniva stare un po' buono. Lì bisogna certo. fare una strategia pensata a freddo, con calma, e si poteva lavorare. Adesso, secondo me, dimmi se sei d'accordo, l'unica chance che Insinna diventi un personaggio in un suo cammino di espiazione, lo portano in tutte le televisioni a piangere, a sbattersi, è come quei personaggi che venivano in qualche maniera scomunicati. Lo scomunicato comunque è interessante andarlo a vedere, poveraccio, macilento, sputato addosso da tutti, che vive nell'immondezzaio come Job, ecco, è creare della sua vita un immenso immondezzaio in cui espia, la sua espiazione forse potrebbe fare ascolto. Lui adesso ha una scelta: o diventa un teatrante da salotto alla Barbara D'Urso, dove va tutti i giorni a piangere, non mi fanno più lavorare, nessuno mi chiama, e mi diventa la macchietta di se stesso. Come faceva Baldini con i debiti di gioco, ti ricordi? Esattamente. Sì, ma alla fine poi un po' gliene porta. Alla fine senti, o ti tagli una gamba, o c'hai un male incurabile, o ti succedono delle disgrazie forti, se no non basta alla fine, non è sufficiente ad alimentare la morbosità di un pubblico, dire che poverino, tanto hanno levato il lavoro in televisione, la gente è solo contenta di quello. Ah certo, sì, l'altra strada è sperare che passi la tempesta, iniziare a fare un po' di teatro, magari può arrivare a qualche fiction e via dicendo. Ecco, non sarà più visto come il padre Pio della televisione italiana, quello è evidente che non è, che quella maschera lì, quel personaggio lì se l'è completamente bruciato. Potrebbe anche fare un doppio salto mortale. Tu sei molto più giovane di me, ma negli anni 70 alcune dive che improvvisamente avevano la loro fama appannata facevano dei servizi su Playmen, non facevano nulla, te le ricordi? Lo fece anche Iva Zanicchi a un certo punto, certo. Capito? Sì. C'erano tutta gente con le sciabole di fuori, loro non toccavano nessuno, però stanno lì in mezzo in delle pose plastiche e rilanciano l'immagine. Potrebbe tentare anche la strada un pochino, non so, fare dei cinepanettoni, dei filmetti un po' più osè, e magari vedere Insinna nella sua necessità di doversi dare anche nella sua intimità per riscattarsi, forse richiamerebbe attenzione. Sì, quello sicuramente. L'unica cosa certa è che devi smetterla di provare a giustificarsi dicendo mi amano tutti, sono gentile con tutti. Sei un isterico. Cioè, te l'immagini gli operai della RAI che esatto. dicono, gli scrivono Insinna, solo con te abbiamo lavorato bene. Ma te l'immagini te? Sei una persona come tutte, sotto pressione, brocca e dà di testa e urla. E urla anche delle cose sconvenienti. Assolutamente. Va benissimo, basta provare a dimostrare quello che tutti abbiamo visto, cioè non sei, quindi dovrebbe smettere lì di provare ad essere finalmente un po' più vero, sempre che ne sia capace. Sarebbe stato bello invece un bel programma con un faccia a faccia con la signora insultata e lui in qualche maniera riscatta questa donna, in fondo in qualche maniera anche se indirettamente è stata insultata, doveva mettere la faccia in una sorta di pubblica riparazione dell'insulto fatto a questa donna. Questo in qualche maniera gli avrebbe giovato, perché sarebbe stato qualcosa veramente mortificante per lui, quello veramente sarebbe stato per il suo orgoglio mortificante. Se lui si fosse abbastanza mortificato, forse in questo avrebbe rivisto un po' di gloria che l'avrebbe fatto risorgere, ma andare a giustificarsi, era fuori i bambini, gli africani, gli emigranti, gli operai della RAI, quelli che li vogliono bene, Sant'Egidio, i preti, Padre Pio, secondo me non gli serve assolutamente a nulla. Ci fermiamo solo un istante. Melog, cronache meridiane. Vorrei che venissero, ma non li chiamo certo io, a parlare tutti i concorrenti a cui ho concesso di pensare prima di accettare o rifiutare un'offerta, perché era la loro serata, decidevano la loro vita, il loro mutuo, i loro debiti. Ho concesso di pensare 20 minuti, 30 minuti. Dal pubblico arrivava mannaci a casa. Mi sono girato, spesso lo ammetto, ce li ho mannati male, non li ho mandati solo a casa, ma io credo a quello che faccio, proteggevo chi giocava e soprattutto proteggevo e proteggerò se mai rilavorerò, perché in tutto questo, Bianca, Emergency, Sant'Egidio, quello che vuoi, ma io posso starmene a casa. Ma però... io faccio quello che faccio, scusami, perché certo, credo che se uno dice così la tentazione di dire ma staccia, allora lascia il posto a un altro, vai, ecco, mettiti rozzo saio e va, presenta il bussa a piedi scalzi alla comunità di Sant'Egidio, dice datemi dei piedi di mendico da lavare, datemi delle piaghe di lebbroso da poter guarire, che ne so, vai a fare quello, se visto che hai questa così profonda vocazione. E c'è qualcuno che mi fa un esempio di altro personaggio televisivo che ha passato un iter politico, un iter anche abbastanza critico dal punto di vista dell'immagine pubblica, Marrazzo. Marrazzo si è messo in politica, è diventato presidente della Regione Lazio, ha avuto una storia uscita sui giornali che certo non sono quelle cose che fanno bene alla fama, però adesso lavora ancora, fa il giornalista, fa l'inviato Rai, mi sembra, a Israele. Quindi comunque sia, ha saputo ricostruirsi un'immagine. Tutti si può sbagliare, tutti si possono fare degli errori. Gli errori pubblici, perlomeno la percezione pubblica di Marrazzo, sono montagne invalicabili rispetto a aver detto a una signora ironizzato sulla sua bassa statura. Eppure ce l'ha fatta. Esisteva una strategia di uscita, Andrea Amato, ricordo, direttore responsabile di TV Zoom, anche per Insinna. Allora, sì, innanzitutto ricordiamo che Marrazzo fa l'inviato Rai perché aveva un contratto e quindi non poteva essere licenziato perché non era una giusta causa. Sì, ma magari lo può anche mettere a fare. Comunque sia, sì, certo. Sì, infatti l'ha inviato in Israele, comunque non l'ha. Beh, io ci metterei la firma adesso, onestamente. Ah, no, certo, certo. Non so te. No, anch'io. Comunque l'uscita migliore che poteva fare Insinna era quella di cavalcare la cosa, di non provare ad avere uno scontro diretto con Ricci e con Striscia perché era evidente che ne sarebbe uscito con l'ossa rotte. Ma lì ne perdente, ma chiunque ne uscirebbe perdente. Lui doveva andare da Striscia e dire ok, ma avete beccato, sono un isterico, organizziamo una cena ripresa da Striscia, io vado con un mazzo di fiori a fare una serenata per chiedere scusa alla signora. Cioè, oh, bravo, esatto, io su quello avrei giocato. Con ironia, quello potrei avrei essere. Sceneggiato, unica... Avrei sceneggiato il recupero con la signora, esatto. Perché la signora è la vittima, è quello il problema. D'accordo con Striscia, quindi andando da Ricci, pregandolo, guarda, aiutami a fare questa cosa. Beh, era oddio. L'unica via. Non so, io non ci sarei stato se fossi Ricci, perché gli facevo un favore troppo grosso. Poteva accettare il tapiro sorridendo, poteva scherzare, poteva dire io ho sbroccato e fare comunque una grande operazione mediatica di recupero dalla signora. Pigliare il suo aeroplanino, andarsene in Sardegna, andare a piedi con il saio scalzo di fronte a porta della signora, aspettare lì come appunto fuori della dimora della Matilde di Canossa finché questa non gli apre e finalmente essere perdonato e tutti sarebbero stati contenti. Massimo, buongiorno. Ah, buongiorno. Allora, io volevo dire due cose. La prima è che la seconda opportunità alla maggior parte delle persone non viene concessa e io non credo debba essere concessa in questo caso, perché qui non c'è soltanto l'insulto e io vorrei dire che anche io, per esempio, come tanti altri, frequento un luogo di lavoro, a me difficilmente comunque scattano, anche io sono isterico, ma difficilmente viene da dire nano alle persone, non è una cosa semplice, non è da dire, ma comunque lui c'ha anche un abuso di potere. Perché lui si trova in una posizione in cui chi viene offeso non è paritario, è in una condizione subordinata in quel momento e anche rispetto ai suoi collaboratori. E l'abuso di potere va assolutamente punito e spero che sia anche di esempio ad altri. Perché l'isteria non te la puoi concedere quando il potere che hai in mano può farla diventare uno strumento molto velenoso. Diciamo questa che lui lavora in una branca commerciale, chiamiamola così, in cui mi viene proprio perdonato perché un dirigente di un'azienda, il capo di una ferriera può permettersi quanto vuole, nessuno dirà mai è trattato male i tuoi dipendenti perché non ha un'immagine pubblica da difendere e lui ha fatto una cosa riprovevole, ma è in un luogo in cui è moneta sonante la propria immagine pubblica, come diceva l'ascoltatore, lui va tutta costruita su questa sorta di immagine di santone, di buono, di filantropo. Prego, vada avanti Massimo. Grazie mille. La seconda è che, da quanto anche le ha descritti lei stesso, questi programmi non sono spontanei, cioè neanche il concorrente può essere spontaneo e può mostrare, certo, un aspetto umano. È costretto a recitare un copione, una parte, a certo. Ridere, a piangere. Certo. Io vedo anche a volte nel gioco delle bombe su un altro canale, diciamo, in cui spesso e volentieri magari i concorrenti conoscono già la risposta eppure devono far finta di andare per esclusione a indovinarla alla fine. Io credo che proprio in, ma anche nei cosiddetti reality show, che vengono chiamati reality, dovrebbe essere realistici, gli autori intervengono fortemente anche sul casting e sul comportamento dei personaggi. Certo. Comunque tutto questo genera una finzione, toglie la spontaneità allo spettacolo. Io preferirei vedere un'unità anche nella modalità di espressione dello spettacolo, non qualcosa di finto che serva semplicemente ad attrarmi verso il televisore solo per un contenuto, per una capacità teatrale di recitazione. La televisione è una macchina costruita per vendere prodotti, e noi compriamo dei prodotti nel momento stesso che guardiamo un canale piuttosto di un altro. Quel tipo di televisione, una televisione generalista, familiare, antiquata, in prima serata, anche se nel servizio pubblico totalmente commerciale, come la trasmissione dei pacchi, questo è un grande teatro per tenere persone che corrispondono a un target ben definito davanti a un televisore, a sperare a immedesimarsi nella povera persona reietta e poveretta che vince il pacco e svolta la vita. Questo è. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie, diciamo, per questa opportunità. Niente, appunto, questo personaggio sicuramente ha fatto un investimento su una promessa che non mantiene, no? E quindi purtroppo chi ha puntato il dito l'ha puntato giustamente, e invece di riconoscere, come dire, Fabrizio, lei che non è un esperto, voglio sapere proprio però il giudizio di uno spettatore. Secondo lei come ne poteva uscire in Sinna da questa cosa? No, ne potevo uscire, come dire, ammettendo, cioè facendo una, come dire, poteva essere purificatorio anche per lui stesso, no? Perché riconoscendo, come dire, il suo limite umano e portandolo a, come dire, no? Perché diciamo, a volte i nostri difetti sono i nostri pregi, se li riusciamo a, come dire, gestire in maniera corretta, no? Quella particolarità, quella cosa può essere un elemento di unicità, no? Quindi diventi una persona unica per quel motivo e quindi lo riconosci e le persone ti accettano per quello che sei. Il problema è che qui, tra virgolette, naturalmente c'è una truffa, perché lui si spaccia per una cosa che non è, e in un mondo, appunto, che va a rotoli, e lui, capito, è uno di quelle che spinge, che lo spinge a rotoli, no? Perché non sta facendo nient'altro che appunto, no, adesso sta peggiorando la situazione. Ha fatto un grande piacere a Rai 3 portando molto ascolto mai visto, una trasmissione quella della Berlinguer, ma se si è fatto del male, perché ormai sta diventando quasi una persona, cioè non mi meraviglierei che il prossimo Crozza, se non fosse finito, facesse Insinna, che è un personaggio crozzabile. Insinna diventa crozzabile, quando una persona diventa crozzabile già entra in un dominio del ridicolo, entra nel novero del teatro dei pupi. Sei d'accordo, Andrea Amato? Sì, assolutamente. Infatti è più crozzabile di Razzi ormai, che non ci ha annoiato. Starà mangiando le mani di non essere in onda, perché questo qua è proprio grasso che cola, è tutto miele, è tutto proprio la vicenda, la sua retorica nella difesa. Ieri che non faceva parlare Bianca Berlinguer perché ha questa verbosità, questa incontinenza, questa bulimia verbale che ormai però non regge più, perché è mancato quel rapporto di fiducia con lo spettatore. Sembrava lo spot di Rio Blu, però applicato ad altra materia. Esattamente, però poi dobbiamo capire noi com'è possibile che nel 2017, quindi non negli anni 50, nel 2017 ancora lo spettatore italiano sia convinto che la televisione sia realtà, cioè che le persone che vedono lì in televisione nella vita reale siano esattamente. Lo sai, Andrea, questa è la domanda che stavo per farti per concludere, me lo chiedevo anch'io. Io non parlo più di televisione da almeno 7-8 anni, ma mi meraviglio, ritornando nuovamente a occuparmene, anche se in maniera sporadica e casuale, che ancora la gente pensi e si illuda che la televisione è qualcosa di vero, che ancora chiede spontaneità, verità. Ancora viene chiesto verità alla più grande macchina, fantastica, meravigliosa, ci porta all'oblio, al sogno, all'uscita dal mondo, ma chiede ancora verità, chiede ancora al conduttore, ma com'è? Tu non sei così. Ma è una cosa terribile, è una cosa che meriterebbe un maggior approfondimento, ma significa che ancora l'italiano medio non è abbastanza maturo da capire. La televisione sì, può essere anche bella, utile e salvifica, ma in realtà è un grande strumento di simulazione. In questa simulazione Insin ha sbagliato, simulando la persona che non era capace poi a sostenere anche nella sua vita privata. Alla prossima.